Buona serata e benvenuti su Rock FM con lo spazio di Hard & Heavy condotto dalla voce di Marco Gravelli. Dopo una pausa estiva che non c'è stata, perché dal primo giorno di agosto sino alla scorso weekend Hard & Heavy si è proposto, presentato a voi con alcune repliche. Da oggi ritorna tutto nella normalità, nel senso che sono qua con voi live in diretta e con naturalmente le varie proposte che arrivano come sempre secondo scaletta dal passato, anni 80-90, e anche naturalmente con tantissime proposte e tante novità. Come sempre il tutto sponsorizzato da Mariposa Dischi Corso Lodi numero 1 qua a Milano e la nostra tracklist, le nostre note biografiche, come sempre proposte, presentate, scritte e redatte da il nostro validissimo Simone, che saluto. Saluto gli amici che sono all'ascolto, coloro che sono ancora in vacanza, coloro che sono già rientrati. I nostri 60 minuti di musica metal hard rock sono in onda ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Rock FM. Iniziamo con la band chiamata Tiger Tales, glam rock band che proviene non dall'America ma dal Galles. Hanno avuto un buon successo grazie al loro secondo album dal titolo Berserk. L'esordio arriva nell'87 con Young and Crazy, seguito tre anni dopo proprio da questo album Berserk, che ha raggiunto la 36esima posizione nelle classifiche inglesi. Dopo la pubblicazione di una raccolta di B-side e tracce risuonate, la band si scioglierà nel 95 poiché non riuscivano a trovare un'etichetta che pubblicasse il loro terzo album. Il gruppo comunque si è riunito nel 2005 con la lineup classica, nel 2006 ha pubblicato il terzo lavoro dal titolo Berserk 2.0. Inoltre questa settimana uscirà un nuovo album dal titolo Frail Pistol. Si tratta di un doppio CD dove il primo disco contiene nuove canzoni. Il secondo è quel famoso album che non è mai stato pubblicato perché, come vi citavo poc'anzi, non hanno trovato una etichetta. L'album avrebbe dovuto intitolarsi What's Bones e così si intitola. Quindi doppio CD in arrivo per i Tiger Tales. Dal loro più famoso lavoro, il secondo Berserk, andiamo a proporre la canzone che apriva l'album, ovvero sia I Can Fight Dirty Too. Si chiamano Tiger Tales. Baby, when the Abbiamo aperto con il glam rock di questa formazione che arriva dal Galles, Tiger Tales, dal loro secondo lavoro Berserk. Andiamo ora, ci spostiamo in Svezia, esattamente nella capitale, Stoccolma, con del buon hard rock melodico proposto da questa band nata nel 1985, perlomeno quello fu l'anno della pubblicazione del loro primo lavoro, sino all'ultimo uscito 4 anni dopo nell'89, poi la band si è sciolta. Hanno pubblicato compreso un'antologia, 5 album. Il loro sound, come vi dicevo, è un classico hard rock svedese molto competitivo sino alla fine degli anni 80. Vi segnalo il terzo album dal titolo Dream Hunter, pubblicato nell'88, registrato con la supervisione di Albert Beckholt, che aveva già lavorato come tecnico del suono con i Def Leppard nel loro famosissimo lavoro Hysteria e aveva preso parte alla produzione di Wings of Heaven dei Magnum. Questo gruppo, ripeto, ha pubblicato comunque tutti gli album sull'etichetta Mercury Records, tranne l'ultimo che si intitola Organized Crime dell'89 su Vertigo, lavoro che poi ha decretato lo scioglimento ufficiale della band. Li andiamo ad ascoltare ora con questo motivo che si intitola Il Vincitore, cioè The Winner, si chiamano i Treat. I'm not afraid to die. vincitore, The Winner. Erano la formazione svedese dei Treat, direttamente da Stoccolma, eravamo negli anni 80. Ritorniamo invece alle cose più recenti, uscito l'8 di maggio questo nuovo lavoro dei Camelot, intitolato Ghost Opera, per questa band americana esattamente di Tampa Bay. Il nuovo lavoro ha raggiunto la 13ª posizione nelle classifiche degli album importati in Giappone, la 25ª in Norvegia. Perché la Norvegia? Perché è la nazione dalla quale proviene il cantante, l'unico non americano della band, cioè Roy Ken, e nella quale si è tenuto il concerto che è stato registrato per il DVD One Cold Winter's Night, pubblicato lo scorso anno. L'album Ghost Opera è stato prodotto dalla famosa coppia Sasha Path Miro, che ormai persiste da ben 4 album e che ha regalato alla band il primo vero successo. L'album è stato anticipato dalla title track, per la quale è stato realizzato anche un video. La band ha inoltre registrato un secondo video per il singolo The Human Stain, che andremo ad ascoltare tra breve. L'album è disponibile in versione CD Jewel Box ed in edizione limitata, con una confezione particolare Digipack, con una bonus track più un DVD con interviste, videoclip e making of dell'album. Vi anticipavo il singolo, allora lo ascoltiamo, il nuovo The Human Stain da The Ghost Opera Camelot. We'll be right back. come sempre molto validi, molto bravi, tecnicamente ineccepibile. Il nuovo Ghost Opera, 8 di maggio è stata la data di pubblicazione di questo lavoro dei Camelot, oggi proposti con il nuovissimo singolo di Human Stain. Ritorniamo nel passato con uno degli album top 3, direi, uno dei lavori in assoluto più importante nella storia dell'hard rock melodico. Pensate che questo gruppo ha inciso però solo questo disco, pubblicato sia in CD che in vinile. Signal, il nome della band, scritto appunto Signal, G-N-A-L. L'album si intitolava Loud and Clear. La band è nata con la grande voce di Mark Free, ex cantante dei King Cobra, che poi, questa è una curiosità che però molti sanno, nel 1995 ha cambiato sesso e anche nome, Mercy Free, quindi da marca Mercy Free. Riguardo la band, c'è da segnalare alla presenza dietro le pelli, dietro i tamburi, dietro la batteria, di Jan Uvena, che è stato presente anche nella formazione degli Alcatraz con Malmsteen e Graham Bonnet alla voce. 10 sono i brani in totale, in uno dei quali è presente come special guest il cantante Eric Martin, che poi è entrato a far parte dei Mr. Big. Andiamo ad ascoltare quello che era il brano che apriva l'album, Arms of the Stranger, da Loud and Clear Signal. Looking back at faded, canzoni, album molto elegante, uso questo termine che mi sembra appropriato per i Signal, Arms of the Stranger da Loud and Clear, un album che vi consiglio, è ancora facilmente reperibile. Ripeto, siamo nel 1989, fine anni 80, quindi per la pubblicazione di questo unico album di questa band era capitanata dalla loro maschietto Mark Free. Andiamo invece ad una delle novità di questo periodo per concludere la prima parte di questa sera di Hard and Heavy su Rock FM in compagnia di Marco Gravelli con la Nuclear Blast All Stars. Nuclear Blast è il nome dell'etichetta, All Stars sono naturalmente le stelle che nel corso degli anni, e sono 20, hanno partecipato, hanno prodotto, hanno pubblicato album con questa prestigiosa etichetta tedesca, ed è un lavoro commemorativo, sono due gli album, entrambi doppi, che escono. Questo è il primo, l'altro uscirà tra breve, entro la fine dell'anno, comunque penso già nel mese di ottobre, fine settembre dovrebbe essere nei negozi. Il titolo di questo primo è Into the Light, ci sono 10 canzoni sul primo CD, il secondo comprende alcune tracce già edite e altre più rare di band della Nuclear Blast. Ripeto, poi seguirà un altro capitolo, sempre doppio, dal titolo Out of the Dark. Il lavoro è stato, con le canzoni nuove, proposte, scritte, composte dal chitarrista bielorusso dei Rage, Viktor Smolsky. Ogni traccia ha la particolarità di essere cantata da un cantante differente, tutti vocalist che con le proprie band hanno segnato la storia della etichetta Nuclear Blast, un po' come è stato l'anno scorso, un anno e mezzo fa, lo stesso lavoro per l'etichetta Roadrunner, se ben vi ricordate. I cantanti sono Tobias Sammet degli Edguy, P.V. Wagner dei Rage, Tony Cacco dei Sonata Arctica, Mats Leven dei Crooks, Jacon Vance, Therion Malmsteen, Shimier dei Destruction, Hansi Kursh dei Blind Guardian, Andy Darris degli Halloween. Poi abbiamo ancora Tarja Turunen dei ex Nightwish, Marco Jietala, cantante e bassista dei Nightwish e Tarot, e Odd Elf Stensland dei Communic. Andiamo a proporvi il brano che si intitola Bloodsucker, dove canta Shimier dei Destruction. We'll be right back. Con le note di questo brano estratto dall'album Illumination abbiamo iniziato la seconda parte del nostro appuntamento di questa sera, di questo lunedì, replicato poi il mercoledì dalle 20 alle 21 con Marco Gravelli, Arden Devi. Erano gli Awake, una band all'esordio, propongono prog metal, arrivano dall'Inghilterra, più precisamente da Cambridge, nati nel 2000. Dapprima con il nome di Humanity e con questo moniker hanno pubblicato un album nel 2003, cambiato poi proprio lo scorso anno e nell'attuale Awake con l'uscita di scena dalla band del loro secondo chitarrista. Ora sono in 5 elementi. Questo lavoro si intitola, come vi dicevo, Illumination. Ci sono 11 tracce, è stato registrato in Svezia con il cantante e chitarrista degli Evergrey, cioè Tom England, che ha anche contribuito ai backing vocals, ed è presente anche il secondo chitarrista degli Evergrey in un brano come special guest. Andiamo in Svezia con i Clawfinger, uscito su etichetta Nuclear Blast. Questo nuovo album è il settimo per la band di Stoccolma, composta attualmente da 5 elementi. Propongono un industrial rap metal e hanno avuto un buon successo a metà degli anni 90 con la pubblicazione del loro secondo album Use Your Brain del 95. Ricordiamo che anche il primo lavoro del 93 ha venduto qualcosa come 600.000 copie. Ad un anno e mezzo dal precedente lavoro è uscito questo Life Will Kill You, il 27 di luglio per essere precisi. 11 tracce registrate presso i Fear and Loathing Studios in Svezia, studio che i Clawfinger gestiscono insieme ad un'altra band famosa svedese, cioè i Meshuggah. Il pezzo che andiamo a proporre è quello che apre l'album, The Price You Pay, Clawfinger. Compromising. We're not smart enough to have a plan B in hand, so we always always end up improvising. We skill enough to settle with the cards we get, when we know there's much more at stake. But giving into pressure is a safest bet, and it's also our biggest mistake. That's the price we pay. That's the price we pay. That's the price we pay. That's the price we pay. We never asked to be put into this position. We never had high demands. We never claimed to be on some kind of mission, like we had some kind of master plan. It's not as if we know exactly what we came for, so we settle for what comes our way. We're always unprepared for the final uncle. What the fuck are we supposed to say? That's the price we pay. That's the price we pay. That's the price we pay. That's the price we pay. That's the price we pay. That's the price we pay. That's the price we pay. Ritorna all'appuntamento con le Metal News, arredate come sempre dal nostro autore Simone. Partiamo con i Candlemass. Uscirà entro la fine di quest'anno il DVD live registrato in occasione del concerto per il 20° anniversario della storia della band, tenutosi a Stoccolma il 31 marzo. 18 le tracce vedranno alla voce tutti i cantanti che hanno militato nella band, tranne Messiah Marcolin. Parliamo del progetto Avantasia, operato in agosto per appendicite e dopo aver duettato dal vivo con i Saxon nel brano 747 Strangers in the Night, il quasi trentenne cantante degli Head Guy, Tobias Sammet, si prepara al ritorno col suo progetto Avantasia, terzo album che si intitolerà Scarecrow. Ad anticipare il tutto, il 19 di ottobre usciranno due singoli, Lost in Space, parte 1 e parte 2. Per quanto riguarda l'album, come vocalista saranno presenti Alice Cooper, Jon Land, Michael Schenker, Rudolf Schenker, Michael Kiske. Notizia importante è che è stata confermata la presenza degli Avantasia nell'edizione 2008 del Wacken Open Air. Aerion proseguono i lavori per il prossimo nuovo album di questa project band di Andreas Lucassen. I nomi dei cantanti vengono presentati periodicamente. Fino ad oggi sono stati rivelati Simone Simmons degli Epica, Tom Englund degli Evergrey, Liselotte Hegde dei Dial, Ty Tabor dei King's X e Magali Luten dei Beautiful Scene. Parliamo dei Down, la band americana che vede in line-up l'ex cantante dei Pantera Phil Anselmo, più membri dei Crowbar e Corrosion of Conformity, ha firmato per la Roadrunner Records, pronta quindi a tornare sul mercato con il nuovo terzo album. Si intitolerà Down 3 Over the Under, ci saranno 12 tracce, sarà disponibile anche in digipack, uscita prevista per fine settembre, e poi entro la fine dell'anno previsto un tour europeo. Parliamo ora dei Sonata Artica. Se n'è andato definitivamente Jani, lo storico chitarrista della band, il suo posto è stato preso da Elias Vilanen, che comunque era già impegnato in tour con la band. Separazione avvenuta in modo molto amichevole. I Vader si intitolerà And Blood Was Shed in Warsaw, il prossimo DVD live per la band polacca, concerto registrato lo scorso febbraio a Varsavia. uscita prevista per il mese di ottobre, sarà disponibile in due versioni, quella con il DVD e quella con anche il CD in edizione limitata, cioè il CD dell'intero concerto. Ozzy Osbourne, il nuovo album Black Rain, uscito pochi mesi fa, verrà ripubblicato in Jewel Case Package con una nuova copertina, un nuovo booklet e diverse foto. Conterrà anche un bonus CD con il making of dell'album. Nel frattempo, domenica 2 settembre, la tribute band chiamata Ieri Ozzy e Vedrai suonerà qui dal vivo a Milano al Transylvania Live. E visto che abbiamo citato quest'album, visto che abbiamo citato il personaggio in questione, ce lo ascoltiamo proprio con il brano intitolato Black Rain, Ozzy Osbourne. Black rain is falling, contaminating the ground. The human race is dying, the dead are scattered around. What is the price of a bullet? Another hole in the head. A black draped over a coffin, another soldier is dead. How many victims have fallen? How many more have to die? People dying in masses. Angel of death standing by. We've got a marching order, defenders of our home and our pride. We've crossed too many borders, penetrating suicide. Confuse me. I watch the body count rise. Why are the children all marching into the desert to die? The human psyche is twisted. The madness rising again. Of our home and our pride. Black Rain, la pioggia nera, titolo dell'album e del brano in questione per Ozzy Osbourne. Ritorniamo invece ad un prodotto che porta un marchio italiano, esce per un'etichetta italiana di Napoli che è la Frontiers Record, è il progetto di Michele Luppi. Il progetto si chiama Los Angeles, Michele Luppi, cantante 33enne dei Mr. Pig e dal 2003 anche dei Vision Divine, oltre ad alle spalle già un album solista uscito 2 anni fa. Oltre a varie collaborazioni con artisti del rock e del pop italiano, si va da Maurizio Solieri, Andrea Braido, tastierista di Umberto Tozzi, e poi collaborazioni con Glenn Hughes e Ian Pace. Al progetto hanno preso parte diversi musicisti come Tommy Denander alla chitarra, Greg Giuffria e Jamie Teramo alle tastiere, Fabrizio Grossi al basso, Frankie De Grasso alla batteria. 11 brani in totale del buon sound AOR. Michele Luppi, lo ricordo, lo potrete vedere dal vivo con i Vision Divine sabato 1 settembre al Transylvania Live di Milano, nell'ambito dell'Italian Legion Tech, un festival italiano con, oltre ai Vision Divine, Domine, Sadist, Rain, Node e Macbeth. Il titolo del progetto, Los Angeles, il titolo appunto dell'album, It Must Be Blind, il brano, la voce quella di Michele Luppi. E noi continuiamo con il prossimo prodotto, un EP uscito quest'estate, tra poco arriverà anche il primo album, il primo dei due lavori. Sto parlando degli americani Ice Dearth, la band di power thrash del chitarrista John Sheffer, che anticipa il prossimo album che si divide in due parti, è un concept. Il primo si intitolerà Framing Armageddon, ci saranno 18 canzoni, poi uscirà tra febbraio e marzo del 2008 Revelation Abomination con altri 12 brani. Questo EP, che ha anticipato appunto l'uscita dell'album, viene pubblicato su etichetta SPV. Le novità e informazioni sono l'ingresso di Troy Seal come secondo chitarrista già amico di John, e poi la sempre presenza del cantante Tim Owens, che ha militato anche per un certo periodo un paio di album con i Judas Priest. La band suonerà anche dal vivo all'Alcatraz di Milano il 10 ottobre. Non ci saranno più i Dark Tranquillity insieme, che suoneranno praticamente la settimana dopo, il 16 di ottobre, questa volta con l'Eastpak Antidote Tour, sempre a Milano, il 16 ottobre con Soilwork, Caliban, Sonic Syndicate, mentre gli Ice Dwarf saranno il 10 di ottobre all'Alcatraz. Allora, li ascoltiamo con Birth of the Wicked, questo è il titolo del brano, l'EP si intitola Overture of the Wicked. Questions, memories, birth, but in this Earth of the Wicked da Overture of the Wicked, gli Eyes the Earth. E chiudiamo questo nostro appuntamento di questa sera con Arden Devi insieme a Marco Gravelli, offerto come sempre da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Ricordo anche il sito internet www.mariposadischi.it e saluto come sempre il nostro autore Simone. Chiudo con il ritorno di questa band americana che è stata attiva sino agli inizi degli anni 90, quando poi, arrivando al grunge, loro e tantissime altre band di hard rock sono state spazzate via a livello di notorietà. Lillian X era il loro nome, avevano inciso diversi album all'epoca, ritornano con Waters Me Rising. Water Rising su etichetta spagnola, almeno per la distribuzione europea, Locomotive Records è il nome dell'etichetta. Il pezzo che andiamo ad ascoltare, che chiude il nostro appuntamento, è proprio quello che dà il titolo all'album, Waters Rising. Un grazie a voi per avermi seguito sino a questo punto. Marco Gravelli vi rinnova lo spazio di Arden Devi a domani sera a partire dalle 20, sempre su Rock FM. Ciao ciao. I can take you to Nevada.